America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, questo è il tema dominante del musical Kinky Boots, che ha vinto una gran quantità di Tony Awards durante la grande serata delle stelle, che è l'equivalente dell'Oscar per Broadway a New York. Devo dire, sempre una serata bellissima, molto affascinante. E questo musical, Kinky Boots, ha vinto 6 Tony Awards, tra cui miglior musical, miglior colonna sonora originale. E chi è che l'ha scritta? L'ha scritta Cyndi Lauper, grande, grandissima cantante pop, che era un po' così uscita dalla circolazione e adesso all'improvviso non solo è ritornata, ha scritto, pensate, ben 15 canzoni per questo musical e ha vinto, come dicevo, il Tony Award per la miglior colonna sonora originale. Poi Kinky Boots ha vinto anche il premio per miglior attore, che è andato a Billy Porter nel ruolo di Lola, migliore coreografia, migliore strumentazione, miglior sound design, insomma, ha fatto l'Amplan. E allora vi parlo di Broadway perché ormai siamo in estate, insomma una gran quantità di voi, cari ascoltatori, a un certo punto prenderà un aereo non con un biglietto di sola andata ma con un biglietto di andata e ritorno per farsi magari una vacanza a New York, negli Stati Uniti, quindi vorrei darvi ogni tanto così qualche spunto per poter fare delle cose divertenti a New York. Cominciamo con la storia di Kinky Boots. Beh, è basata, poggia su un film inglese del 2005 ed è la storia di una fabbrica di scarpe, a conduzione familiare che rischia la bancarotta. E le scarpe sono un po' l'elemento dominante, il manifesto, la locandina di questo musical a Broadway, e ci fa vedere due enormi scarpe rosse con questi tacchi altissimi. E la trama continua, il giovane Charlie ha ereditato la fabbrica da suo padre e a un certo punto si inventa un piano per salvarla, perché questa fabbrica sta andando malissimo. E cosa fa? Converte la produzione di scarpe eleganti, che faceva prima la fabbrica, elegantissime per uomini d'affari, a stivali fetish per drag queens, e in questo si fa aiutare da Lola, che è appunto una drag queen, e la sua troupe. And I want to thank Broadway for welcoming me. You know, this city. Ecco, Cyndi Lauper che ringrazia Broadway per averla accolta. È stato uno dei momenti più teneri della serata, in ottima forma, forse qualche chiletto in più, però sempre straordinariamente energetica, bravissima. E qui dice: mi rendo conto di quanto duro lavoro ci sia dietro ogni produzione e questo mi ha dato ispirazione. Sono onorata di sentirmi parte di questa comunità, la comunità degli attori, degli autori, dei registi, dei coreografi di Broadway. E Cyndi Lauper entra così nell'Olimpo dei GET, cioè di coloro che nella loro carriera hanno vinto un Grammy, un Emmy e un Tony. I wouldn't be here if someone else hadn't passed on hosting, so special thanks to Shia LaBeouf for this opportunity. Il conduttore strepitoso, devo dire, della serata è stato Neil Patrick Harris, 39 anni, Albuquerque, New Mexico, ha completamente conquistato la platea. Devo dire, è stato molto più bravo, è stata una performance migliore quella che ho visto del presentatore ai Tony Awards che quella che ho visto negli ultimi 2-3 anni ai premi Oscar. Forse dovrebbero dare un colpo di telefono al signor Patrick Harris e chiedergli se può essere disponibile quando ci saranno gli Oscar l'anno prossimo. Pensate, è riuscito persino a far ballare Mike Tyson. Mike Tyson è l'ex pugile, l'ex campione, e hanno fatto un duetto, hanno ballato uno a fianco all'altro, hanno cantato in un medley di 8 minuti. Perché Tyson? Beh, perché, e questa è la grandezza dell'America, questo boxer aveva portato a Broadway l'anno scorso il suo show Mike Tyson Undisputed Truth. Forgive me if it's random, but Mike Tyson had a one-man show. Let's give the man a hand and make things bigger. Uno spettacolo, dicevo, a un certo punto c'è stato un terzetto di attori e attrici che così si prendevano un po' in giro perché il loro spettacolo era stato cancellato. Sentiamo Megan Hilty in questa strepitosa interpretazione dello spettacolo nello spettacolo. What I did for the chance for producers and directors and writers and casting directors and just, well, everybody to see me and love me, because after all that's essentially what we all crave, because nobody ever hugged us as children, which is why we got into this business in the first place. Altri consigli per Broadway: Pip Pence ha giudicato 4 Tony Awards, miglior revival, miglior attrice, Patina Miller, miglior attrice non protagonista, Andrea Martin, migliore regia, Diane Paulus. La storia è la storia di un giovane principe alla ricerca del significato dell'esistenza. It's been 30 years since I stood on the stage. I really didn't think it would happen again in my lifetime. La migliore attrice invece a teatro, quindi non in un musical ma in una pièce teatrale, è stata Cicely Tyson. E insomma, questa donna è una donna afroamericana, anziana, e ha fatto questa sua apparizione, devo dire, da grandissima star, comportamento di quelle grandi attrici dei film muti, e dice: sono passati 30 anni dall'ultima volta che ho calcato il palcoscenico e non credevo che sarebbe successo di nuovo, mi stavo abituando all'idea, se non fosse che avevo questo bruciante desiderio di tornare a recitare per un'ultima volta e di interpretare un grande ruolo. E così è stato. E Cicely Tyson, 79 anni, ha interpretato il ruolo di una vedova che ritorna nella sua città natale in The Trip to the Bountiful, un altro bellissimo musical. Cicely è nata e cresciuta a Harlem, figlia di una domestica e di un falegname immigrati nel 19 da Navy, su una piccola isola dei Caraibi. È stata scoperta da un fotografo della rivista Ebony, divenne subito una celebre modella, poi nel 73 fu candidata al premio Oscar, e devo dire, la bellezza di questo teatro, di questa Broadway, di questa storia nella storia, di queste commozioni in cui si è capaci di premiare un'attrice di 79 anni che da 30 anni non calcava le scene e che però al suo ritorno ha conquistato di nuovo pubblico, critica e naturalmente tutti i suoi colleghi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, questa classifica della National Public Radio, devo dire, è alquanto entusiasmante. Ha selezionato le migliori canzoni uscite nei primi 6 mesi di quest'anno, ve le sto proponendo da qualche giorno. Oggi ascoltiamo The Flaming Lips. Look, the sun is rising. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.